24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a un nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. L'addio di Jean-Claude Trichet alla presidenza della BCE, celebrato a Francoforte, diventa l'occasione perché i grandi protagonisti della politica e dell'economia europea si confrontino sul come affrontare la crisi. È stato previsto infatti un colloquio tra il presidente francese Nicolas Sarkozy, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente della BCE Jean-Claude Trichet e il numero uno del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde. All'incontro anche il futuro presidente dell'Eurotower Mario Draghi, il presidente della Commissione Europea José Manuel Barroso, il presidente dell'Unione Europea Herman Van Rompuy. Il presente richiede un'azione immediata, ha detto Trichet nel suo discorso d'addio. E sulla crisi il presidente della Commissione Barroso ha auspicato che il vertice di domenica dia risposte vigorose per dare garanzie a tutti i paesi, ma ha rilevato che anche se avessimo tutte le decisioni auspicate, ciò non significa che non dovremmo affrontare una fase di rodaggio difficile per la loro realizzazione. Non possiamo pensare che le decisioni di domenica siano la fine dei nostri dolori, ha precisato Barroso. E alla vigilia del vertice proseguono intanto i lavori per la definizione dei budget 2014-2020. I fondi per la politica di coesione sono stati indicati in 376 miliardi per 7 anni e sono il bacino da cui attingono le regioni e le amministrazioni locali. Gigi Donelli ne ha parlato con Mercedes Bresso, dal 2010 presidente del Comitato delle Regioni. Sul bilancio europeo ci sono molte tensioni perché gli stati che devono contenere le proprie spese chiedono all'Europa di fare altrettanto, quindi in un bilancio che praticamente non cresce, che cresce dello 0,1%, un aumento dei fondi per l'insieme della politica di coesione mi pare molto importante. Non dimentichiamo che comunque ci sarà la Croazia in più e che quindi abbiamo, come dire, anche qualcuno in più che condivide le risorse. Ecco, risorse che peraltro attengono a aspetti molto pratici della vita quotidiana. Intanto sono tutti fondi destinati a investimenti in senso proprio per quanto riguarda, diciamo, la convergenza o la competitività, cioè sono fondi per rilanciare l'economia delle nostre regioni, sono tutti fondi regionalizzati in Italia ma nella maggior parte dei paesi e quindi sono le uniche risorse su cui le regioni potranno contare per le politiche di rilancio dell'economia. Non dimentichiamo che sono 2014-2020, non possiamo permetterci di non rilanciare l'economia europea di qui al 2020. Le altre risorse sono quelle del Fondo Sociale Europeo, che sono le risorse per tutte le politiche dell'impiego, quindi la riqualificazione dei lavoratori, nelle situazioni di crisi anche la riconversione delle loro competenze, ma anche la formazione dei giovani per i nuovi mestieri, in particolare tutte le tecnologie dell'informazione, i nuovi mestieri nel campo delle risorse ambientali, nel campo delle energie rinnovabili, tutte cose che necessitano di risorse importanti e che da sempre, tradizionalmente, le regioni italiane finanziano attraverso i fondi europei. E l'ipotesi di un rafforzamento fino a 2.000 miliardi del fondo salva stati ieri ha spinto al rialzo le borse europee. Ieri la migliore è stata a Milano, dove FTSE MIB e Allshare hanno guadagnato rispettivamente il 2% e l'1,67%, con Intesa San Paolo Superstar più 7,3%. Le altre piazze europee non hanno brillato anche per i riflessi della trimestrale deludente di Apple. Parigi è così chiusa più 0,5%, Francoforte più 0,6% e Londra più 0,7%. A Piazza Affari intanto le ricoperture sono scattate sui big del credito, come detto Intesa più 7,3% e Unicredit più 5,2%. Tra gli altri titoli positivi spiccano l'Automatica più 5,4% grazie agli ottimi dati di settembre sul Lotto e Gratta e Vinci. Bene anche Ansaldo più 3,2%, per la quale la di Finmeccanica Giuseppe Orsi è tornato a ribadire la ricerca di una partnership. Ceo Condina da Radio Corp per Radio 24 e Sole 24 Ore. Intanto la Commissione europea ha dato il via libera alla proposta di regolamento che indica i progetti prioritari nel quadro delle grandi reti transeuropee per il periodo 2014-2020. Nella lista dei progetti strategici figurano i collegamenti ferroviari Napoli-Bari, Napoli-Reggio e Messina-Palermo, ma non il ponte sullo stretto. Sentiamo quali sono le priorità da Antonio Poglio Salimbeni dell'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radio Cor. È stato confermato che il ponte sullo stretto di Messina non fa parte dei progetti prioritari europei, resta un affare cuore dell'Italia soltanto. L'assoluta novità riguarda il sud. Alla fine si è trovata una composizione degli interessi. Non si dovrà scegliere fra la costa tirrenica e la costa adriatica per la direttrice verso Malta. Il tratto dal nord al sud avrà una biforcazione a Napoli, verso la Sicilia e verso Bari. Quindi non ci sarà nessuna guerra di territori. L'Unione Europea dovrebbe finanziare la linea ferroviaria Napoli-Bari e Napoli-Reggio Calabria e inoltre in Sicilia la Messina-Palermo. Ci sono altre conferme tra le opere prioritarie, troviamo le tratte del corridoio adriatico e poi Udine, Trieste, Venezia e Ravenna avranno degli aiuti per la loro interconnessione, prioritaria resta la Torino-Lione e sarà potenziata la tratta Milano-Venezia-Trieste e priorità è stata anche assegnata al corridoio del nord Rotterdam-Genova. E nel giorno in cui Moody's ha colpito la Spagna abbassando il giudizio sulla solidità del paese ad A1, la Grecia è paralizzata dagli scioperi. Protestano diverse categorie di lavoratori contro le misure di austerity decise dal governo per uscire dalla crisi. Non sono mancati scontri e disordini. Un primo bilancio parla di 15 feriti tra i poliziotti e 10 tra i manifestanti, 5 fermi, 10 gli arresti. Sentiamo da Atene Vittorio Darold. 200.000 persone sono sfilate ad Atene, soprattutto in piazza Sintagma, dove ci sono stati degli scontri duri tra polizia e dimostranti. Gli slogan erano molto molto pesanti: bruciamo il Parlamento, gridavano i gruppi più estremisti, quelli di Exarchia, gli anarchici di Exarchia, che hanno appunto distrutto vetrine, sempre prendendo di mira soprattutto le banche. Cercavano di fare pressioni perché c'è giovedì il punto cruciale del governo Papandreou, che dovrà approvare le misure di austerity, quelle che garantiranno la concessione del sesto piano di aiuti, quelli di 8 miliardi. Queste misure prevedono in particolare la riduzione di 30.000 unità nel settore del pubblico impiego, lo sblocco dei contratti nazionali collettivi e l'imposizione di nuove tasse sulla casa. Ecco quindi il tentativo è quello di rompere il fronte della PASOK, del governo di maggioranza socialista. L'ora X è fissata alle 12.34 di giovedì, orario di Bruxelles. In quel momento, salvo imprevisti tecnici, evento oltre il limite dei 20 km orari, verrà lanciata dalla base spaziale di Kourou nella Guyana francese una navicella con i primi due satelliti del progetto Galileo, la risposta europea al GPS statunitense. Con questo lancio entra nel vivo il più importante e costoso progetto spaziale europeo, che dovrebbe diventare operativo a partire dalla fine del 2015 e che già ora vede la presenza di importanti imprese italiane. Sentiamo Marco Falcone, system manager del progetto per conto dell'Agenzia Spaziale Europea, sempre al microfono di Gigi Dorelli. Il sistema Galileo è un sistema satellitare composto da 30 satelliti, simile al sistema americano GPS, ma con performance molto migliorate. Cominciamo ora con il lancio dei primi due satelliti operazionali, al quale seguirà l'anno prossimo la seconda coppia di satelliti e poi completeremo la prima parte della costellazione con 18 satelliti. Perché Galileo è meglio di GPS? Ci faccio un esempio. Dal punto di vista dell'accuratezza, mentre con GPS si ha un'accuratezza dell'ordine di dai 20 ai 50 metri, con Galileo si arriverà invece a una performance dell'ordine del metro. Quindi, per esempio, quando si guida a bordo della propria auto sull'autostrada, saremo capaci di distinguere la corsia sulla quale ci troviamo. E magari Galileo sarà dunque lo strumento che permetterà di fare un salto tecnologico anche alle automobili del domani. Un'ultima domanda, quando sarà operativo il sistema? Il sistema comincerà a essere operativo dal 2015 con servizi mass market, open service e servizi public regulated, cioè per servizi a forze della polizia, dogana e cose del genere, e servizi di search and rescue che vengono già utilizzati in campo marittimo. Dopodiché dal 2018 in poi il sistema sarà completato con la piena costellazione composta da 30 satelliti e a quel punto aggiungeremo anche servizi in supporto dell'aeronautica e degli aerotrasporti in particolare, che sono ancora più demanding dal punto di vista delle performance del sistema. Ed è tutto per questo appuntamento con 24 ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi in regia e a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.